Eccoci qua, mentre salutiamo gli Scappè, gentilissimi, tutti e 19, sono venuti a suonare per noi il nostro studio. Lanciamo un nuovo fantastico programma di questa fantasticissima, bellissima radio che bio, dirà adesso... Biografie rivoluzionarie. Oh yes. Con un solo bio. E... quindi, storie di? Rivoluzionarie e rivoluzionarie. E, sì, abbiamo deciso di preparare un programma che racconti un po' la storia di... rivoluzioni e lotte sociali attraverso le vicende umane personali di chi le ha attraversate. La puntata di oggi tratterà la Comune di Parigi, quindi un po' andremo un po' indietro per vedere le origini di quello che è stato un processo rivoluzionario fondamentale per la modernità. Non racconteremo tante vicende personali oggi, perché un fatto collettivo così grande necessita anche un po' un inquadramento della vicenda. Di fatto effettivamente c'è già una piccola contraddizione di fondo, ma si sa, noi siamo autonomi, abbiamo la contraddizione come metodo. Raccontare biografie di movimenti che si vogliono e sono molto spesso collettivi, classi intere, popolazioni intere, risulta un po' quasi già un ossimoro in partenza. Ma questo non toglie che a fare le rivoluzioni ci sono delle persone che hanno la loro biografia e quindi... talvolta è anche utile e intelligente raccontarne la storia. Esatto, e quindi ci proveremo per appunto inquadrare un pochettino quello che furono gli avvenimenti di quel periodo. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, Napoleone III in un momento di difficoltà, di crisi di governo, e per seguire un po' il suo predecessore e ispiratore Napoleone Bonaparte, tenta la via della guerra imperialista per consolidare il potere e si scontra con la Prussia. Siamo nel luglio 1870, il suo tentativo fallisce brevemente. Ma la Francia non è più quella di una volta. Non era più quella che mandava la Russia per poi farsi ammazzare la gente del generale Inverno. No. Esatto. Le prende molto prima ad arrivare i russi. Esatto, e su questo Marx, per esempio, scrive, ironizza, no? A proposito della figura di Napoleone III, dicendo che la storia si presenta sempre due volte, la seconda volta come farsa, no? E quindi lui chiaramente un po' ispirandosi al glorioso passato francese ci prova, ma si danno a gambe, lui stesso fugge durante una battaglia e siamo già dopo un mese alla sconfitta della Francia. E siamo al 2 settembre, sì, sconfitta di Sedan, tra l'altro famosa sconfitta che viene studiata nei manuali di strategia militare, perché c'è tutto dietro un'analisi sullo stile di guerra prussiano che come un martello disintegra l'esercito francese, e quindi la guerra finisce in un giorno solo. Quindi sì, grandi mazzate, e il 4 di settembre, pochi giorni dopo, Parigi insorge all'Hôtel de Ville, al municipio dove sta il governo cittadino, e per frenare il colpo di mano operaio gli stessi deputati di Parigi propongono un governo repubblicano. Quindi nasce il governo repubblicano e nel frattempo i prussiani assediano Parigi a fine di settembre. Il governo quindi si trasferisce a Bordeaux, il governo repubblicano neonato si trasferisce a Bordeaux, e per rispondere all'assedio prussiano viene ricostituita la Guardia Nazionale, che era nata durante la Rivoluzione Francese, insomma, di quasi un secolo prima. Si dice che la memoria è un ingranaggio collettivo, hanno avuto un po' di memoria, si sono ricordati 100 anni prima cos'era successo con la Guardia Nazionale. Esatto, e quindi questo strumento di difesa, il popolo in armi, viene ricostituito, e a fine di settembre iniziano le trattative per l'armistizio. Il giochetto che viene fatto è quello di lasciare al nuovo governo repubblicano il lavoro sporco di portare avanti le trattative per questa guerra perdente, e quindi poi di far pagare comunque il peso di questa sconfitta alla classe operaia. Chiaramente la popolazione questa cosa ce l'ha ben presente, e le istanze più progressiste si oppongono all'invasione prussiana, si oppongono ai giochi di palazzo che vedono un sacco di elementi del nuovo governo repubblicano in realtà legati ai corrotti alla legati alla monarchia e corrotti al vecchio impero. La classica riproposizione della minestra, no? Cambiano esatto. Il nome, ma poi alla fine la ricetta è sempre la medesima. Esatto, e chiaramente i parigini questa cosa la avvertono e infatti si susseguono nei mesi che vengono diverse altre rivolte. Nel frattempo, il 28 gennaio del 71 viene firmata la capitolazione secondo le condizioni che Bismarck richiede, che impone. E, Bismarck, che non è soltanto una pizza, di cui sono molto goloso, ma è anche un famosissimo e noto statista prussiano. Questa esatto. Dire che è nozioni grazie, fondamentali grazie. Nella storia. No, perché sì. Giustamente perché la gente poi si confonde in questo periodo poi in cui magari si va poco al ristorante. Ma che poi voglio dire, ma la pizza Bismarck si chiama Bismarck perché piaceva tanto a lui? Ma i dubbi che si aprono nelle biografie rivoluzionarie. La storia è complessa, certo. Lasciamola lì. Separiamocene. Pensateci e da casa. E quindi queste trattative proseguono tra il generale Thiers e Bismarck e... Bismarck però non ci sta a trattare la pace con un governo che era nato con una rivoluzione, sostanzialmente un governo repubblicano nato da una sommossa operaia. Perché era già troppo di sinistra, già che erano i monarchi riciclati, i monarchici ecco per la parola corretta, riciclati comunque erano troppo di sinistra, quindi lui ne voleva degli altri. Non ce la poteva fare. E quindi chiede elezioni, nuove elezioni per l'8 febbraio 71. Democratico Bismarck. Uno che lo chiede che cosa volete fare... E queste elezioni si concludono con la nomina di Thiers, del generale che appunto stava conducendo le trattative. Una cosa inaspettata, insomma. Chi l'avrebbe mai detto, insomma? Il primo marzo viene firmata la pace e 100 deputati che si erano opposti a alle condizioni si dimettono. Rimane da sottomettere Parigi, che è ancora gestita, governata dalla Federazione Repubblicana della Guardia Nazionale, che dopo le elezioni era chiaramente rimasta in piedi, non c'era stata cedere ai reazionari tutto il potere che si era conquistata nella sommossa di settembre. Ed era praticamente l'organizzazione politico-militare che strutturava la Guardia Nazionale, che comunque erano una caterva di reggimenti, perché erano tipo una roba come 300.000 persone organizzate in 250 sì. Battaglioni, cioè insomma... Esatto, una roba abbastanza importante. E tra l'altro appunto era il popolo in armi, avevano costituito questo esercito autonomamente, acquistato le armi con delle sottoscrizioni, con delle raccolte fondi. Cioè noi ci mettiamo 6 mesi per tirare su 1000 euro per il crowdfunding del fotovoltaico, loro in 2 settimane si compravano i fucili. Hanno tirato su un esercito. E quindi per esempio tra le condizioni della pace... Bismarck aveva chiesto lo scioglimento dell'esercito francese, ma la Guardia Nazionale, essendo un esercito tra virgolette privato, comunque non sotto il controllo dello Stato francese, aveva la possibilità di rimanere compatta. Tra l'altro, prima, mentre preparavamo la puntata, perché bene sì, questa cosa è stata preparata, incredibile, nonostante noi tendenzialmente, io perlomeno con Zona Rossa, non prepariamo nulla fino alla fine della puntata. Beh, comunque ben ormai 50 minuti fa. Quindi voglio dire, una preparazione infinita. Questa cosa che la Guardia Nazionale si compra da sole fucili e non può essere disarmata perché è un esercito composto da privati cittadini, mi ha ricordato un po' gli opliti del mondo ateniese, del mondo ellenistico, delle repubbliche, delle città-stato, ecco. È interessante questa cosa, per cui se alla fine ogni cittadino diventa soldato della propria patria non può essere disarmato, formalmente un esercito non c'è, quindi non c'è la delega della difesa, della propria autodifesa, anzi, a una struttura esterna, e quindi non può essere disarmata per legge, perché ogni cittadino diventa difensore di se stesso, di se stessa e di tutti gli altri, e di tutte le altre. È una cosa da notare. Certo. Più pensare. Ma proseguiamo, scusami. No, e poi questa cosa verrà nuovamente fuori, perché poi lo vedremo... vedremo anche il governo centrale di Parigi, il governo centrale monarchico, ovviamente non è che gli andrà troppo a genio che i progressisti parigini avevano un proprio esercito, quindi nel frattempo, firmata a questo punto, rimane da sottomettere appunto Parigi. Il governo si sposta da Bordeaux a Versailles, il governo che a questo punto è un governo reazionario con Thiers a capo, e per prepararsi appunto a far deporre le armi agli insorti di settembre che ancora gestivano la città. Prima gli viene chiesto più volte di cedere le armi fino a il 18 marzo, quando l'esercito regolare attacca la città per cercare di appunto riconquistarla. Ricordiamo che invece nelle settimane precedenti Tiersa aveva tentato, utilizzando dei suoi uomini che ancora erano legati al vecchio ordine, di ristabilire il controllo, per esempio affidando degli incarichi importanti a dei suoi uomini fidati, capo della polizia, capo del tribunale, ma tutto questo non bastava perché appunto erano ormai in minoranza e il controllo gli era sfuggito. 18 marzo, quindi, proclamazione della Comune di Parigi. Che indice peraltro delle elezioni per costituire i propri deputati 2 giorni dopo. È bellissimo questa cosa per cui, cioè, si fa le robe 448, via, dopodomani si vota, Ale. E votano, e tra l'altro Hanno il da voto. fare, ragazzi, hanno Esatto, da fare. sono presi. No, è la cosa, e tra l'altro l'altra cosa divertente per chi è stato a Parigi, non so, Davide, tu sei stato a Sono Parigi? Non stato un paio di volte, sì. so se sei stato a Montmartre. Sì. Montmartre è questa collina molto bella, turistica, si vede tutta Parigi, ma è ormai praticamente il centro di Parigi, no? Cioè, sì, abbastanza periferica, ma in realtà ormai è già abbastanza gentrificata, eccetera, eccetera. Fa ridere perché qui invece l'esercito regolare francese arriva a Montmartre come se stesse arrivando alle estreme periferie della Chiaro. città. E niente, quindi chissà, queste famose elezioni, ovviamente è uscito qualcuno dall'Hotel de Ville urlando per la città, ha fatto il giro in 6 ore, 7 ore, perché comunque Parigi era una città grossa Certo. anche nel 1800, però in 7-8 ore te la giravi tutta e più o meno chiunque sapeva che... La diretta che ci sentiamo di aver conquistato con il web. Esatto, il bello della Ragazzi, diretta. bisogna fare votazioni. Sarebbe bellissimo. E la questione è questa: io non leggevo prima sui numerosi portali e bibliografie estese che abbiamo letto per preparare questa puntata che le elezioni sono un buon successo di partecipazione perché contando che la città contava un 500.000 votanti reali, 400.000 qualcosa, votarono 390.000 quando 100.000 erano già profughi dalla città che comunque era stata per molti mesi accerchiata dai prussiani e bombardata dai prussiani, quindi una situazione in cui una città era già abbastanza allo stremo per fame, freddo, perché comunque si era passato l'inverno e un assedio. Nonostante questo, la percentuale di votanti era estremamente alta. I risultati delle elezioni sono rassicuranti perché assicurano l'entrata nel governo della città di 25 operai e partigiani, no? Operai e artigiani, che comunque per quei tempi erano qualcosa di incredibile, perché ricordiamo che siamo nel 1870, probabilmente c'erano già state le prime elezioni per il Parlamento italiano, perché l'Unità d'Italia era nel 1861, ma si votava per censo e votavano soltanto i più ricchi, quindi era praticamente impossibile in Italia che un operaio e o un artigiano arrivasse a sedere in Parlamento o là dove le leggi venivano fatte. Qui invece abbiamo una città che da sola presenta su 93, 25 sono espressione diretta della classe operaia e del proletariato. Il resto dei parlamentari, anzi dei parlamentari, dei Deputati. deputati della città, erano comunque facevano parte della Dei piccola membri del borghesia. consiglio, possiamo Membri del dire. consiglio, esatto. Faceva parte della piccola borghesia della città. Questo perché, ovviamente, essendo comunque il 1870, le persone conosciute erano professori, avvocati, notai, però non erano più quei, come si dice, facenti parte del vecchio regime. Anche se va Attenzione. sottolineato la grande percentuale, diciamo, di stranieri presenti all'interno del Consiglio, perché l'internazionalismo a cui si rifacevano, che hanno proclamato, poi era veramente espressione. Cioè il Consiglio era davvero espressione di questo internazionalismo a cui si rifacevano. E quindi abbiamo russi e anche molti altri membri di vari paesi, ma poi ve ne nomineremo qualche uno. Va bene, allora a questo punto noi potremmo lasciarvi con la prima canzone che io ho trovato, che faccio vedere al mio compagno se la conosce, ma non ve la dico perché così non vi rivelo la sorpresa. Potremmo mandare questa e Fammela poi sentire che magari l'orecchio. facciamola sentire, però se te la faccio sentire la sentono anche in diretta, che va bene, che ci piace, però magari anche no. Vediamo un po' come funziona, facciamo un dissolvi ora al volo e ascoltiamo le prime note di questa canzone, che ha un silenzio infinito all'inizio. Riempiremo. Così, spostando il cursore più avanti. Dobbiamo alzare il volume, sennò non si sente. Le donne che noi vediamo in questo quadro sono le donne della Comune di Parigi. Nel 1870 si sono costituite in un battaglione e hanno sconfitto addirittura i prussiani. Hanno scritto anche una canzone stupenda che noi vogliamo mettere in questa nostra serata, in questo nostro spettacolo. È una canzone un po' violenta, a qualcuno farà sicuramente raddrizzare i capelli, ma qualcun altro ci rifletterà sopra. Grazie. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Sì, mi piaci te, mi piace l'amore con te, ma incinta non voglio restare. Oh no, quel figlio non sarà per te, ma per il padrone io lo dovrei fare. Perché me lo possa adoperare di fatica e tristire, come in guerra mandare, solo per lui lo debbo allattare, allevare dai ferri e dalla tosse guarire. Sì, mi piaci te, mi piace l'amore con te, ma incinta io voglio restare. Di lotte e di rabbia lo voglio allattare, di rosso soltanto vestire, nelle mie bestemmie bagnare, con canzoni bastarde lo voglio ninnare. Armato poi contro il padrone lo voglio mandare, e armato poi contro il padrone lo voglio mandare. Lai lai lai. Beh, è un pezzo, direi, oserei dire tranquillo, sereno, poco aggressivo. La ragazza è incazzata. Brividoni, brividoni. Ma va bene, allora, abbiamo lanciato questo, questo fantastico assist musicale per una piccola parte, piccola no, per la parte sulle donne nella Comune di Parigi, che adesso Davide ci illustrerà fantasticamente. Sì, cioè il tema delle donne nella Comune di Parigi è complesso e richiederebbe un approfondimento a sé. Noi vogliamo invece dedicare questo momento giusto per raccontare alcune vicende che richiedono assolutamente attenzione, ma poi anche nelle letture successive ritornerà un po' questo tema. Nel 12 maggio 1871, quindi dopo qualche settimana dalla conquista, dalla dichiarazione dell'inizio della Comune di Parigi, che comunque durò circa 2 mesi e mezzo, viene inaugurata la prima scuola professionale femminile di arte industriale. E la scrittrice Tinayre viene nominata ispettrice generale delle scuole parigine. Viene proibito l'esercizio della prostituzione, e su questo ci sarebbe da aprire un capitolo a sé, appunto. Siamo fino all'Ottocento, che cosa è il femminismo in quel momento, quali sono le correnti, quali sono le posizioni. Poi negli anni 70 del Novecento ancora il dibattito su questo tema sarà grosso, ma su questo abbiamo anche le compagne che tengono il programma Le Ribelli, hanno ampiamente trattato la questione in qualche occasione. Vengono organizzati asili, viene abolita la distinzione tra figli legittimi e illegittimi e concessa l'indennità alle mogli delle guardie nazionali. Poi ulteriori diritti dopo li racconteremo in alcune letture. Nasce l'Associazione Unione delle Donne, che era stata fondata durante l'assedio di Parigi da Ali e la russa Elisabeth Dmitriev. Una seconda Dmitriev, facciamo finta di essere russi. Una seconda associazione, Unione delle Donne per la Difesa di Parigi e il Soccorso ai Feriti, viene organizzata nell'aprile del 71. poco dopo l'attacco delle forze di Versailles. Ci fu un manifesto importantissimo che è datato 8 aprile, firmato un gruppo di cittadine con il quale si chiamavano le donne di Parigi e la lotta in difesa della comune. Ne rappresenta l'atto di nascita, l'11 aprile, la pubblicazione dello statuto. Un altro importantissimo documento è la dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine, che è proprio la versione al femminile, ovviamente nel contesto specifico della donna nella Francia di fine Ottocento, è la versione della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che vuole portare l'attenzione appunto sulla condizione della donna. Io direi di andare avanti e per poi riprendere questo tema tra poco. Dimmi tu, attacchiamo con la prima lettura o sì, vogliamo ascoltare un'altra canzone? Facciamo che tu pensi a una canzone mentre inizio la lettura, così al massimo poi inframmezziamo la lettura. Vai, con una bella canzone. Ci so. Ti consiglio allora di cercare prima da qui, per le canzoni che abbiamo nella nostra valida libreria, perché questa è una trasmissione così figa interattiva che praticamente ci autospieghiamo come fare la radio nel mentre che la facciamo, e no, da qui la si può prendere tranquillamente reperendola dall'internet. Va bene, io invece ora vado a leggervi un brano selezionato dal carissimo e validissimo Davide di Gli ultimi giorni della comune di Prosper Oliver Lissagaray, edizioni Red Star Press. È un libro che ovviamente parla appunto nello specifico degli ultimi giorni della Comune di Parigi, che durò, ai noi, soltanto 2 mesi. Andiamo a leggere l'introduzione. Il destino di una rivoluzione, passato, presente e futuro della Comune di Parigi. Parigi operaia, scrive Karl Marx, con la sua comune sarà celebrata in eterno come l'araldo glorioso di una nuova società. I suoi martiri hanno per urna il grande cuore della classe operaia. I suoi affossatori, la storia li ha già inchiodati all'agonia eterna, e tutte le preghiere dei loro preti non riusciranno a riscattarli. Marmaglia, briganti, canaglia, assassini, ubriaconi, bestie feroci, dedite a balordie e orge. Sono questi alcuni degli appellativi con cui furono definiti dai loro oppositori, coevi e non, i comunardi di Parigi. Si tratta, del resto, degli stessi epiteti utilizzati anche in Italia da borghesi e progressisti per descrivere tutti i movimenti di protesta, tanto negli anni 70 del Novecento, quanto oggi. E questa è l'origine della retorica nata intorno ad appellativi come teppisti, delinquenti, spiantati e più recentemente Black Bloc. Epiteti che, alla fine del XIX secolo, puntavano a screditare agli occhi dell'opinione pubblica, francese ma anche europea, quella che fu a tutti gli effetti la prima rivoluzione sociale prima del 1917. Durante il Secondo Impero, la produzione industriale e la popolazione della Francia erano raddoppiate. Parigi si era radicalmente trasformata, diventando sempre più una città operaia. Come bene ne scrisse Karl Marx, infatti, con la Comune di Parigi la classe operaia fu considerata, anche dalla maggioranza della borghesia di Parigi, come la sola classe capace di un'iniziativa sociale. Gli artigiani, i commercianti, i negozianti si schierarono attorno ad essa. La Comune di Parigi nacque come conseguenza tanto della sconfitta francese nella guerra franco-prussiana quanto della perdita di autorità tra le classi popolari parigine del neonato governo repubblicano. In seguito alla sconfitta delle truppe francesi a Sedan all'inizio del settembre 1870 a Parigi, dopo l'insurrezione popolare, fu proclamata la decadenza dell'impero di Napoleone III e la nascita della Terza Repubblica, affidata a un governo provvisorio di difesa nazionale formato soprattutto da alto borghesi. Esso decise di continuare la guerra contro i prussiani, che il 18 settembre misero sotto assedio Parigi. Vista la disgregazione dell'esercito, assunse sempre maggiore importanza nella difesa della città la Guardia Nazionale che, ridotta sotto l'impero a 24.000 uomini, in settembre si accrebbe fino a 344.000 unità. Il popolo di Parigi fece delle pubbliche collette per raccogliere il denaro necessario a comprare i cannoni con cui armare questi uomini. L'arruolamento avveniva attraverso gli arrondissements municipali e per questo, nonostante la diffidenza del governo, vi entrarono molti uomini dalle idee politiche radicali. Mentre proseguivano le sconfitte militari, il popolo di Parigi, rifacendosi alla lunga tradizione che aspirava all'autogoverno municipale, creò il Comitato Centrale dei 20 Arrondissements, con il compito di vigilare sui funzionari municipali nominati dal nuovo esecutivo e sulle operazioni di difesa. Il governo, intanto, cominciò a pensare con sempre maggior frequenza alla resa. Il popolo di Parigi, guidato dalla Guardia Nazionale e consapevole che avrebbe pagato in prima persona le conseguenze economiche dell'armistizio, considerava questa prospettiva come un tradimento. Dal punto di vista politico, a promuovere questa opposizione furono i socialisti, tanto quelli legati ad Auguste Blanqui, francese qui zoppica già, quanto quelli vicino a Marx e alla Prima Internazionale, i repubblicani radicali, i giacobini che si rifacevano alla tradizione della Grande Rivoluzione e alcuni anarchici. Intanto, con il proseguire dell'assedio e dei bombardamenti, la popolazione parigina era sempre più impoverita e i viveri sempre più carenti. Alla fine del 1870, nella capitale, il popolo si cibava di gatti, cani e addirittura i topi. Questa situazione si aggravò all'inizio del nuovo anno, quando Parigi cominciò ad essere bombardata dai prussiani. Il governo era sempre più screditato e nella capitale cominciava a serpeggiare la speranza del suo esautoramento e della nascita di una forma di autogoverno municipale, la Commune. Il governo centrale, temendo più la sollevazione dei parigini che i prussiani, pensò che la capitolazione fosse l'unico modo per evitare l'insurrezione sociale e il 28 gennaio fu reso ufficiale il testo dell'accordo per l'armistizio, firmato con il neonato Reich tedesco. I prussiani ottennero la consegna dei forti, il disarmo delle truppe, ma non della Guardia Nazionale, un contributo di guerra da Parigi e la sfilata del proprio esercito nella capitale, vera e propria umiliazione per i suoi abitanti. A febbraio, grazie soprattutto ai voti delle campagne, fu eletta una nuova Assemblea Nazionale. Essa vedeva una netta maggioranza di conservatori e monarchici orleanisti, favorevoli alla pace. Il popolo di Parigi, invece, aveva votato principalmente per i repubblicani. L'Assemblea nominò come capo del governo Adolphe Thiers, colui che fu definito da Marx come mostruoso nano e maligno aborto, da Bakunin, come volpe infame e da Lenin come mostriciattolo sanguinario. Ah, una persona positiva. Il 1 marzo fu firmata la pace, in base all'accordo di gennaio. Nella capitale, però, la popolazione non voleva accettarne le clausole. Le manifestazioni popolari si fecero continue. I parigini, in ostile alla pace, si raccolsero intorno al neonato comitato centrale della Federazione della Guardia Nazionale, da cui l'appellativo federati, sempre più in conflitto col governo. Un dualismo di poteri che si acuì soprattutto quando l'Assemblea, il 10 marzo, decise di abolire la paga delle guardie nazionali, unica fonte di guadagno per molte famiglie. Nella notte tra il 17 e il 18 marzo, Thiers fece entrare le sue truppe in città per sottrarre ai parigini i cannoni della Guardia Nazionale. La reazione popolare fu immediata e la manovra fallì. Il 18 marzo l'insurrezione divampò e si diffuse in tutte le strade della città. Thiers, il governo e i vertici militari fuggirono a Versailles. Una parte delle truppe governative invece si unì alle classi popolari parigine. Il popolo era padrone di Parigi, come scrisse il giornalista Prosper Olivier Lissagaray. Si trattò di un movimento spontaneo, ma per nulla imprevisto, che nasceva dalle viscere del popolo, fattosi protagonista della scena politica. La bandiera rossa fu innalzata sul municipio parigino, l'Hôtel de Ville. Nasceva così una grande esperienza di governo popolare e libertà, che durò però soltanto 72 giorni. Un tentativo destinato a morte prematura, che tuttavia ha costituito un esempio mirabile per il movimento operaio e popolare fino a oggi. L'insurrezione era stata animata da molteplici ideali politici. I comunardi erano in maggioranza giacobini, repubblicani radicali e blanquisti, preoccupati soprattutto del problema del potere, mentre una minoranza era costituita da prodoniani e socialisti legati all'Internazionale, interessati soprattutto ai problemi sociali. Il Comitato Centrale della Guardia Nazionale, di cui facevano parte lavoratori, artigiani e operai, come l'internazionista Eugène Varlin, rilegatore di libri, per lo più sconosciuti, si mise al lavoro per amministrare provvisoriamente la città fino alle elezioni municipali. Le elezioni per il Consiglio Municipale di Parigi, la Comune, si tennero il 26 marzo. Su 90 eletti, 25 erano operai, una quarantina artigiani, moltissimi calzolai, bottegai e intellettuali, una ventina notabili eletti nei quartieri alti, che però si dimisero. Numerosi erano gli stranieri, eletti in virtù del fatto che la bandiera della Comune è quella della Repubblica Universale. Il 28 marzo fu proclamata la Comune, davanti a una folla di migliaia di persone che sventolavano bandiere e sciarpe rosse davanti all'Hôtel de Ville. La Comune fu tanto un'assemblea parlamentare quanto un governo. Con essa si sperimentò una nuova forma di democrazia diretta, basata sulla partecipazione attiva dei cittadini agli affari pubblici. Le prime misure mirarono ad alleviare le dure condizioni di vita delle fasce di popolazione più precarie. Furono così sospesi la vendita degli oggetti depositati al Monte di Pietà e gli sfratti degli inquilini morosi, e fu concessa la possibilità di rimandare il pagamento delle pigioni. Furono poi abrogati la costrizione e l'esercito permanente, che fu sostituito con il popolo in armi, la Guardia Nazionale. stabilito un tetto massimo per lo stipendio degli impiegati e membri della comune e tutti gli impieghi dirigenziali, amministrativi, giudiziari, giudiziari, educativi, furono resi elettivi e revocabili. La giornata lavorativa fu fissata a 10 ore, furono abbassati i salari più alti e aumentati quelli delle categorie meno retribuite, almeno per i lavoratori comunali, per i quali fu anche stabilito un salario minimo. Fu decisa la requisizione degli alloggi lasciati vuoti dalla borghesia, che avrebbero dovuto essere occupati da quanti avevano perso la loro abitazione durante i bombardamenti. Si decretò la separazione tra Stato e Chiesa, l'abrogazione dei pagamenti pubblici a scopi religiosi e la trasformazione dei beni ecclesiastici in patrimonio nazionale. Dalle scuole furono banditi i simboli degli insegnamenti religiosi. Fu approvata una pensione obbligatoria a feriti di guerra, estesa alle vedove sposate o no, e agli orfani decaduti. Fu abolito il lavoro notturno dei panificatori e il sistema delle ammende, le tasse che i lavoratori dovevano pagare in caso di ritardi, rifiuto di denunciare i compagni, eccetera. Particolare importanza fu data anche all'istruzione, obbligatoria, laica, gratuita e incentrata su materie scientifiche o legate al reale. L'internazionalista ungherese Leo Frankel, in stretto contatto con Marx, propose che le fabbriche abbandonate dai proprietari fuggiti da Parigi fossero censite e gestite direttamente dai lavoratori, ma tale richiesta fu soddisfatta solo in parte. Sul piano culturale, riaprirono i teatri chiusi durante l'assedio, come anche i club e i caffè. Particolare attenzione fu data anche alla fruizione dei musei da parte del popolo. Il 13 aprile fu deciso, su iniziativa del pittore Gustave Courbet, di abbattere la colonna Vendôme, affermazione di militarismo e simbolo di sopraffazione che oltraggiava il principio di fratellanza. La demolizione avvenne il 16 di maggio. All'interno della comune fu molto importante il protagonismo femminile. L'11 aprile fu creata l'Unione delle Donne per la Difesa di Parigi e per la Cura dei Feriti, su iniziativa dell'internazionalista Nathalie Lamel e della giovane socialista russa Elisabeth Dmitriev. Molte donne parteciparono ai moti di piazza, tanto come vivandiere, infermiere, staffette, quanto come combattenti armate. Tra essi si distinse la maestra Louise Michel, sempre in prima fila negli scontri a fuoco, come infermiera e come combattente. Allora politicamente vicina ai blanchisti, negli anni 80 e 90 diventò poi una importante animatrice del movimento anarchico parigino. A partire dall'inizio di aprile si intensificarono i bombardamenti dei versagliesi su Parigi, che fecero numerose vittime. Nonostante l'aggravarsi della situazione militare, domenica 7 maggio il popolo parigino assistette nei giardini delle Tuileries a un concerto organizzato per raccogliere fondi per i feriti. Rosa Bardet eseguì la canaille. A tutti gli astanti cantarono con lei in coro «C'est la canaille, bien je sois». Mi spiace, ma il mio francese è sempre pessimo. «Questa è la canaglia, ebbene ne facciamo parte», la traduzione, rivendicando così uno degli insulti più in voga contro di loro. Nel pomeriggio del 21 maggio, grazie al tradimento di un parigino, le truppe versagliesi, aiutate dai prussiani, entrarono in città. Era l'inizio della Semaine Sanglante, la settimana di sangue che Louise Michel definì l'ecatombe. L'esercito di Versailles, guidato dal generale MacMahon, avrebbe potuto espugnare Parigi in pochi giorni, ma probabilmente Thiers preferì impiegarci di più per annientare i federati e le loro idee. Dal giorno successivo i parigini rafforzarono le barricate e ne ressero di nuovo. Uomini, donne e ragazzini, in realtà piccoli operai che lavoravano all'età di 6-8 anni, si unirono alla difesa della città, combattendo strada per strada, barricata per barricata, metro per metro. Molti palazzi, come le Tuileries e l'Hôtel de Ville, furono dati alle fiamme per cercare di arrestare l'avanzata dell'esercito. I versagliesi iniziarono subito le uccisioni di massa, gli incendi di case e di interi quartieri. Uno degli ultimi luoghi di combattimento fu il cimitero Père Lachaise, dove i federati resistettero tra le tombe per ore. Molti dei comunardi morirono eroicamente. Il 28 maggio Parigi fu espugnata definitivamente dai versagliesi. Migliaia di persone furono rastrellate e uccise o incarcerate. Si trattò di una repressione durissima, definita a ragione come un terrore tricolore. La borghesia, terrorizzata dalla possibilità di una rivoluzione sociale dei lavoratori, volle estirpare questo rischio in ogni modo. La Francia, l'Austria-Ungheria e la Germania cercarono un accordo per mettere fuori legge la prima internazionale. La repressione si fece internazionale tanto quanto l'organizzazione socialista e operaia. Allora, in questo momento dovete darmi ancora qualche secondo per mettere la canzone giusta. Abbiamo interrotto la lettura che continuerà presumibilmente dopo la canzone. Davide, dammi una mano commentando questo piccolo primo estratto di lettura che abbiamo fatto. Sì, iniziano a venire fuori un po' le innovazioni della Comune di Parigi e il suo carattere, quello della donna, le istanze operaie. Ha governato meglio la Comune di Parigi in due settimane nel 1870 che il PD in cinque anni nel 2015. Incredibile. Ringraziamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici del PD. Grazie. Migliaia. Fantastici. E no, è veramente sempre bello vedere quando le rivoluzioni funzionano, è sempre emozionante. Ma invece vuoi dirci qualcosa del brano che andiamo ad ascoltare? Il brano che andiamo ad ascoltare penso che lo riconosceranno tutti e tutte. È un classicone. Classicone nella versione francese, perché poi venne riscritto e registrato in tutte le lingue del mondo, Oh Yeah, e con delle varianti di testo, insomma, in base al suono che ogni lingua. Della lingua. Sì. Va bene, allora adesso ci ascoltiamo 3 minuti e 20 di pace dalla mia terribile voce, l'internazionale versione in francese. Alziamo il volume, se non si sente una mazza. Changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, nous pour nous. Sempre bello quando gli amici cantano le canzoni giuste. Ringraziamo il coro francese che ci ha proposto l'internazionale. Tutti potete intonati, restare... complimenti. Erano un po' in ansia, esatto. I coristi e le coriste. Potete restare a spiegarci come si leggono alcune cose in francese, perché noi non sappiamo. Ma continuiamo la lettura dagli ultimi giorni della Comune, Red Star Press, di Prosper Olivier Lissagaray. Alla fine di maggio le strade di Parigi erano coperte di corpi che facevano temere epidemie. Alcuni furono sepolti, spesso ancora vivi, in fosse comuni, altri trasportati nei cimiteri del contado. Alcuni furono impilati in casematte che, chiuse ermeticamente, venivano incendiate. Altri furono gettati nella Senna e in alcuni laghi, che si colorarono di rosso. Questa repressione è testimoniata da moltissime fotografie dei corpi dei comunardi uccisi. Sono migliaia, infatti, le immagini della comune, della sua resistenza e della sua fine giunte fino a noi. Le stime dei morti sono imprecise. Probabilmente furono tra i 20 e i 30 mila i comunardi uccisi sulle barricate o giustiziati nella repressione successiva, mentre tra i versagliesi si contano solo 877 morti. Gli arrestati furono invece 50 mila, mentre molti riuscirono a fuggire. Tra morti, imprigionati e esiliati, circa 100 mila persone sparirono da Parigi. I processi dei consigli di guerra contro i federati, considerati criminali comuni, durarono anni. I condannati a morte furono 270, all'ergastolo 410, alla deportazione in Nuova Caledonia 7.495, al carcere 3.393, alla fortezza 1.267. A Montmartre, quartiere operaio di Parigi, simbolo della resistenza comunarda, fu costruita l'enorme chiesa bianca del Sacro Cuore, con l'intento di espiare i delitti dei federati. La settimana di sangue e la repressione tricolore costituiscono l'oggetto della cronaca di Prosper Olive di Sagarai, nato nel 1838 e morto nel 1901. Le otto giornate di maggio, finalmente pubblicato da Restat Press con il titolo Gli ultimi giorni della comune, cioè il libro che stiamo leggendo, basato su materiali pubblicati, su ricordi personali e racconti e testimoni oculari e su una serie di documenti come i protocolli della comune. Giornalista socialista e repubblicano da sempre ostile al Secondo Impero, il Sagarai fu spesso condannato per i suoi articoli antibonapartisti, chiamato come funzionario con incarichi nell'organizzazione della difesa di Parigi dopo la proclamazione della Repubblica, fin da subito si schierò con la Comune. Egli scelse però di non esserne né membro né un impiegato, ma di servirla come giornalista e, durante le settimane di sangue, sulle barricate come combattente. Fuggito in Belgio per non rimanere vittima del terrore tricolore, già nel settembre 1871 diede alle stampe le otto giornate. Nonostante la sua partecipazione emotiva agli eventi, mantenne in questa cronaca un tono distaccato e onesto, mettendo ad esempio in luce la disorganizzazione e l'indisciplina che caratterizzava le azioni della Guardia Nazionale, accresciute dal dualismo di potere tra essa e la Comune. Accolto favorevolmente dallo stesso Marx, le otto giornate fu tradotto in molte lingue ed ebbe molte edizioni. Si tratta infatti di un'opera vivace ed emozionante, precorritrice di quel giornalismo militante che, qualche decennio più tardi, vide in John Reed il suo massimo esponente. Alla fine del 1871 il Sagarai si trasferì a Londra, dove entrò in contatto proprio con Marx e la sua famiglia. Qui iniziò una relazione sentimentale con Eleanor Tussi Marx, la terza figlia del moro di Treviri, di ben 17 anni più giovane di lui. Questo rapporto fu subito osteggiato tanto da Karl, che cercò di impedire, a dir la verità, senza successo, alla figlia di frequentare il suo Lissa, quanto dalla sua primogenita Laura e dal marito Paul Lafargue. Eleanor lasciò la casa paterna e si trasferì a Brighton, continuando la sua relazione con Lisa Garay, che aiutò nella traduzione in inglese della sua monumentale Storia della Comune del 1871, edita poi nel 1876. Il fidanzamento naufragò nel 1882. Lisa non perdonò mai ai Lafargue la loro intromissione nel rapporto, mentre Tussi morì suicida nel 1898 dopo aver scoperto che il suo nuovo compagno, socialista inglese Edward Avelling, aveva segretamente sposato un'altra donna. Al di là della sua ostilità al rapporto della figlia con Lisa Garay, Marx, nonostante nel settembre 1870 avesse ritenuto una follia ogni ipotesi risoluzionale in Francia, nel marzo 1871 da Londra si pose immediatamente al fianco dell'insurrezione parigina e scrisse centinaia di lettere in suo appoggio. Dalle considerazioni che buttò giù per il Consiglio Generale dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori nacque la Guerra Civile in Francia, relazione che tenne già il 30 maggio 1871, che è il prossimo libro che leggeremo stasera. Quasi tutti i maggiori ideologi del movimento operaio, socialisti e anarchici, scrissero sull'esperienza della Comune, da Marx a Engels, da Lenin a Trotsky, da Bakunin alla Briola ad Andrea Costa. Ognuno ha rintracciato nell'evento qualcosa di diverso, di utile per le proprie teorie. Se infatti per Bakunin la Comune costituì una audace e ben caratteristica negazione dello Stato, lo affermava nel 1871, secondo Marx, con essa per la prima volta il proletariato assunse la sua funzione transitoria di direzione e amministrazione dell'intera società, distruggendo la vecchia macchina statale per sostituirla con il governo della classe operaia, risultato della lotta della classe dei produttori contro la classe degli appropriatori. Engels e Lenin, proponendo la loro interpretazione delle parole di Marx, parlarono esplicitamente della Comune come di una forma di dittatura del proletariato. Nel 1917, nelle tesi di aprile, Lenin aggiunse che i soviet degli operai e dei soldati riproducevano il tipo di Stato che la Comune di Parigi ha elaborato. Questi teorici si interrogarono anche sui limiti che portarono al fallimento della Comune. Marx identificò come errori quello di non aver marciato subito su Versailles e quello, da parte del Comitato Centrale, di aver ceduto il suo potere troppo presto alla Comune. Engels aggiunse il non essersi impadroniti della Banca di Francia. Lenin, d'accordo sul limite di questo rifiuto a procedere all'espropriazione degli espropriatori, sottolineò anche l'errore di aver unito il patriottismo, la liberazione della Francia dai prussiani, e il socialismo, l'emancipazione operaia, e quello di non aver sterminato i propri nemici versigliesi. La Comune di Parigi ha poi costituito un mito sociale per tutto il movimento operaio internazionale. Essa si sviluppò soprattutto dal 1879, quando si ebbe la prima amnistia per i condannati e gli esiliati. Nel 1880 ebbero luogo le prime manifestazioni commemorative collettive della Comune presso il muro dei federati al cimitero Père Lachaise, davanti al quale erano state giustiziate 147 persone. Come scrisse Engels, esso rimane ancora oggi come un muto ma eloquente documento di quale furibonda follia è capace la classe dominatrice non appena il proletariato osa farsi innanzi reclamando i suoi diritti. Tale è stata la sua forza evocatrice nel movimento operaio che la Comune è stata celebrata tanto nell'Unione Sovietica quanto nella Cina maoista. In tempi più recenti la sua esperienza è stata riportata nel dibattito politico dei movimenti grazie alle opere del filosofo francese Alain Badiou, qua mi spiace per il francese, e dello studioso inglese David Harvey, e dalle riflessioni nate intorno ai movimenti Occupy. Badiou ha interpretato la Comune come l'unico tentativo dei movimenti politici operai e popolari di porsi al di fuori della sinistra parlamentare, una rottura con la forma rappresentativa della politica o, volendo andare ancora più in là nella provocazione fondata, rottura con la democrazia, che, secondo il filosofo, sarebbe ancora oggi necessaria. Harvey, invece, partendo dalle considerazioni che dalla Comune di Parigi in poi i movimenti rivoluzionari hanno sempre assunto una dimensione urbana, ha posto questa esperienza come una precorritrice di quella contemporanea dei movimenti Occupy, sviluppatasi in seguito all'esperienza newyorkese iniziata nel settembre 2011, in quanto ha visto il protagonismo non tanto degli operai di fabbrica, quanto dei lavoratori precari, industriali o meno, della Parigi dell'epoca. Anche per Toni Negri il movimento Occupy è quello che ha approssimato meglio l'esperienza della Comune, segnando un passaggio politico non reversibile. L'attenzione contemporanea per la Comune dimostra come il Moro di Treviri ci avesse visto giusto nell'affermare che i suoi principi sono eterni e non possono essere soppressi. Come 40 anni dopo aveva ragione Lenin quando, facendogli eco, affermò che la Comune lottò non già per qualche obiettivo limitato strettamente nazionale, ma per l'emancipazione di tutta l'umanità lavoratrice, di tutti gli umiliati, di tutti gli offesi. La causa della Comune è quella della rivoluzione sociale, dell'emancipazione politica ed economica di tutti i lavoratori, quella del proletariato di tutti i paesi. In questo senso, essa è immortale. Scrisse a proposito della Comune di Parigi Ilenia Rossini con queste parole: l'hanno uccisa a colpi di fucile, a colpi di mitragliatrice, è arrotolata con la sua bandiera nella terra argillosa, e la turba dei grassi boia si credeva più forte. Tutto questo non impedisce, Nicolà, che la Comune non sia morta. Beh, un bel viaggione, una bellissima analisi, una bella composita anche di tante opinioni diverse, di gente comune, insomma, gente che incontri tranquillamente, sì, Lenin, Trotsky, tutti al bar, a parlare al pub, che commentano quello che fai. In un comune bianchino, via. Sì. No, forse preferivano il rosso, frizzante. Frizzantino. Va bene, caro Davide, allora abbiamo detto che la canzone dopo, ora dici tu qualcosa. Sì, la canzone prossima, però... La facciamo partire dopo così un lancio, prepariamo la rampa di lancio per la prossima canzone, facendo un piccolo spaccato su quello che fu il consiglio della Comune, che era formato da prodoniani, socialisti internazionalisti, marxisti e non, neogiacobini, radicali che si chiamavano anche rivoluzionari indipendenti e blanchisti. Tra i blanchisti però mancava Blanchi perché era stato arrestato nel marzo proprio dal governo Thiers. Vi regaliamo un racconto di una storia, una biografia appunto, quella di Leo Frankel, che è stato uno dei marxisti internazionalisti che ha tra i più attivi all'interno della Comune, all'interno di questa corrente. E a proposito di quello che dicevamo prima, cioè della composizione anche internazionale, della presenza di molti stranieri non francesi all'interno del Consiglio, lui ne è un esempio. Infatti Le Frankel è nato in Ungheria, ha vissuto in Germania e successivamente a Londra, dove si è iscritto e aderito all'internazionale. Poi è andato a Parigi, dove ha lavorato come operaio gioielliere, e ha rappresentato la sezione tedesca dell'Internazionale. Per questo motivo venne arrestato nell'aprile del 70 con l'accusa di complotto e appartenenza a società segreta. Viene condannato a luglio a 2 mesi di prigione e liberato poi alla caduta dell'impero, quella caduta che prima un po' vi raccontavamo, successiva alle sconfitte contro la Prussia da parte della Francia. Quindi nel settembre del 70 viene liberato dopo il colpo di mano operaio di Parigi, diventa membro della Guardia Nazionale, del Comitato Centrale e del Comitato Centrale dei 20 arrondissement municipali. Arrondissement, questo lo so dire, perché a Parigi mi hanno fatto un mazzo così perché non si può dire il nome del quartiere. Merci. Ricostituì la sezione parigina dell'Internazionale. Non viene eletto all'Assemblea Nazionale dell'8 febbraio, in quelle elezioni ricordiamo che ha voluto Bismarck e che hanno portato alla vittoria del reazionario del generale Thiers, e dove si era candidato come socialista rivoluzionario. Il 26 marzo all'interno della viene chiamato per far parte del Consiglio della Comune di Parigi. Il 30 marzo scrive a Marx in questa lettera. Gli dice: se riusciremo a trasformare radicalmente il regime sociale, la rivoluzione del 18 marzo sarà stata la più efficace di tutte quelle che si sono avute fino ad oggi. Così facendo risolveremmo i problemi cruciali delle rivoluzioni sociali a venire. Quindi un po' lancia questo intuito rispetto al peso che avrà poi la Comune di Parigi. Fece parte della Commissione Finanze, della Commissione Lavoro e Scambio e poi ancora della Commissione Finanze successivamente. Decretò l'abolizione del lavoro notturno dei panettieri, che appunto in questi 3 mesi fu vietato, il divieto delle multe sui salari e il censimento delle officine abbandonate in vista della creazione di officine cooperative. Votò per la costituzione del Comitato di Salute Pubblica. Durante la settimana di sangue fu ferito in una barricata e fu salvato da Elisabeth Dmitriev, l'altra internazionalista di origini russe di cui prima facevamo cenno, che fu anche la fondatrice dell'Union des Femmes. Sfuggì ai versagliesi, si rifugiò in Svizzera e poi in Inghilterra, mentre in Francia il Consiglio di Guerra lo condannava a morte. A Londra prese parte nel 72 alla conferenza dell'Internazionale, unendosi alle tesi di Marx. E l'anno dopo, al congresso dell'AIA, votò l'espulsione di Bakunin, il congresso dell'AIA in cui ci fu la spaccatura fra comunisti e anarchici. Nel 75 si trasferì in Germania, ma ne fu subito espulso. Passò in Austria, viene arrestato a Vienna, poi liberato, torna nella sua patria natale, l'Ungheria, e viene poi nuovamente arrestato per un anno e mezzo. Per finire poi a lavorare come tipografo e collaboratore di una rivista socialista, il Gleichheit. Ma anche il tedesco... Che non si dirà sicuramente così. Anche il tedesco ci sfugge al momento, ma va bene così. Probabilmente avrò detto una parolaccia invece che un qualcosa di... Naturalmente tutte le genti che ci stanno ascoltando dal grande Deutschland Tribuna possono dirci... Sì, scriveteci pure. Ci scriveranno sicuramente. Anche la traduzione di questa parola, che è una parola meravigliosa, che ho invece storpiato. Tornò in Francia nell'89 partecipando al congresso di fondazione della Seconda Internazionale. Collabora al quotidiano dei socialisti tedeschi, che non pronuncio stavolta, e alla Bataille. Morì di polmonite a fine 800, nel 1896, e viene sepolto nel cimitero di Père Lachaise. Aveva scritto... Lo stesso di cui si parlava prima. Esatto, grazie della connessione. E, nel suo testamento chiede funerali semplici come quelli dell'ultimo morto di fame e chiese di essere avvolto nella bandiera rossa, la bandiera del proletariato internazionale per l'emancipazione del quale ho dato la parte migliore della mia vita, scrive. Dal 1968 i suoi resti riposano nel cimitero Kerepesi di Budapest. Qui, prima di lanciare la canzone che è stata annunciata, ormai l'avrete capito, è Bandiera Rossa, prima vi racconto brevemente la storia della Bandiera Rossa. Davide è infermabile. È una storia carina. È una miniera di cose, di conoscenza. Una storia bravo, molto perché carina. Mi ero dimenticato di prenderla del tutto, di scaricarla, quindi hai ancora un minutino. Prego, fantastico. La bandiera rossa assume il significato che conosciamo solo nel 1832 in Galles, quando diviene il simbolo di sanguinosissimi scontri tra minatori e polizia, polizia pagata dai proprietari delle miniere. I dimostranti infatti la issano e si riuniscono sotto le camicie insanguinanti di alcuni caduti. Nelle settimane successive molti lavoratori del Regno Unito issano bandiere rosse in segno di solidarietà con i lavoratori delle miniere. Inoltre, quando la notizia dell'eccidio si sparse, il simbolo fu prima adottato dai lavoratori tedeschi e poi utilizzato in Francia dagli oppositori repubblicani alla monarchia. Socialisti repubblicani radicali nella rivoluzione francese del 48 adottarono la bandiera rossa come simbolo della loro causa, mentre i sostenitori della più moderata Seconda Repubblica Francese, che era stata fondata durante la prima fase della rivoluzione, si riunirono attorno al tricolore. La bandiera rossa venne in seguito adottata dalla Comune di Parigi nel 1871 e divenne il simbolo strettamente associato al socialismo che noi conosciamo oggi. Beh, è sempre una bella storia, storia di famiglia. Poi faccio, ricordami dopo la canzone di fare una piccola nota su questa cosa dei nomi, delle biografie eccetera, perché a me c'è una cosa interessante. Ma va bene, smettiamola di dire cose, lasciamo parlare la banda Bassotti con Bandiera Rossa. Lasciamo di cantare, tutto alziamo il volume, se no si sente una mazza e via. In radio è scoppiato un pogo incazzatissimo. Nonostante le distanze di sicurezza. Assolutamente, però Gulli ha delle braccia lunghissime, il suo gomito. Il gomito in faccia, pugni. Abbiamo visto anche la partecipazione dei Sex Pistols, se non sbaglio. Eppure contro la monarchia inglese, va. Ale, via. Oh, grazie Banda Bassotti, hanno preso un super freccia rossa da Roma per venire qui, ma adesso tornano indietro perché domani è lunedì e si ricomincia il cantiere. Bisogna ricordare che la Banda Bassotti è un gruppo di lavoratori, proletari lavoratori nell'edilizia, che non ha mai smesso di lavorare. Ci tengono a farlo notare, mi sembra giusto ricordarlo. Eroi, eroi. Assolutamente. Va bene, va bene. Allora, cosa ci propone adesso Davide? Beh, per avviarci verso la fine di questa vicenda, mi sembra utile riprendere uno scritto di Marx, che già prima tu hai citato. Carletto ci voleva dire due robe. Nella guerra civile in Francia ha chiuso tutte le fasi della Comune di Parigi, divise in tre capitoli, e analizzando un po' tutta quella che è stata la vicenda politica interna e internazionale e il senso che ha rappresentato storicamente, con un'analisi che gli appartiene, tipica di quel personaggetto. E parto con la lettura. Sono degli estratti, non è un testo unico, però filerà. Parigi armata era l'unico ostacolo serio sulla via del complotto controrivoluzionario. Quindi torniamo a quello che stava succedendo. Quindi Parigi si era opposta a essere sottoposta al nuovo governo di Thiers, eletto appunto l'8 febbraio, richiesto da Bismarck, e quindi siamo a questo. Parigi, unico ostacolo sulla via del complotto controrivoluzionario. Parigi dunque doveva essere disarmata. Su questo punto l'Assemblea di Bordeaux era la sincerità in persona. L'Assemblea di Bordeaux, che è quindi la sede del governo prima che si trasferisse a Versailles, prima di attaccare Parigi, quando si trasferisce a Versailles, è ancora a Bordeaux la sede del governo. Ma mentre ostentavano con insolenza la loro vera intenzione nel disarmare Parigi, i cospiratori le chiesero di deporre le armi con un pretesto che era la più sfacciata, la più evidente delle menzogne. L'artiglieria della Guardia Nazionale di Parigi, affermò Thiers, apparteneva allo Stato e doveva essere restituita allo Stato. Questa artiglieria era stata fornita con sottoscrizione della Guardia Nazionale. Nella capitolazione del 28 gennaio era stata ufficialmente riconosciuta come proprietà di quest'ultima e a tal titolo era stata eccettuata dalla consegna generale al vincitore delle armi appartenenti al governo. E Thiers era così assolutamente sprovvisto di ogni protesto, fosse pure il più insignificante, per iniziare la guerra contro Parigi, che dovette far ricorso alla sfacciata menzogna che l'artiglieria della Guardia Nazionale è la proprietà dello Stato. Il sequestro dell'artiglieria avrebbe dovuto servire evidentemente come preludio al disarmo generale di Parigi e quindi alla rivoluzione del 4 settembre. Ma questa rivoluzione era divenuta il regime legale della Francia. La Repubblica, opera sua, era stata riconosciuta dal vincitore nei termini della capitolazione. Quindi qua Marx fa riferimento al fatto che Bismarck, comunque gli stessi reazionari francesi, sono costretti a riconoscere il governo repubblicano, che è figlio della sommossa operaia del 4 settembre, lo riconosce nei termini in cui inizia la trattativa dell'armistizio, anche se poi non le vuole concludere chiedendo nuove elezioni. La rivoluzione degli operai di Parigi del 4 settembre era il solo titolo legale all'Assemblea Nazionale di Bordeaux e del suo esecutivo. L'Assemblea Nazionale, con i suoi poteri notarili per fissare le condizioni della pace con la Prussia, non era che un episodio di quella rivoluzione, la cui vera incarnazione era pur sempre Parigi in armi. Che l'aveva iniziata, aveva subito presso un assedio di 5 mesi con gli orrori della fame e aveva fatto della sua resistenza prolungata, a dispetto del piano di Truc, la base di un'ostinata guerra di difesa delle province. E ora Parigi doveva deporre le armi al comando insolente dei negrieri ribelli di Bordeaux e riconoscere che la sua rivoluzione del 4 settembre non significava altro che il semplice passaggio del potere da Luigi Bonaparte ai principi suoi rivali, oppure affrontare il sacrificio come campione della Francia, di quella Francia che era impossibile salvare dalla rovina, e rigenerare senza l'abbattimento rivoluzionario delle condizioni politiche e sociali che avevano generato il Secondo Impero e che sotto la sua vigilante protezione erano maturate fino alla loro decomposizione. Quindi qui dice appunto, con le nuove elezioni viene chiesto agli operai parigini di riconoscere che quella Repubblica non era nient'altro che un gioco di potere all'interno della classe dominante, e quindi il passaggio da un principe all'altro. La città di Parigi e tutta la Francia diventavano, come al solito, i sudditi del giochino dei regnanti dell'Europa, per cui voi siete miei, poi siete suoi, perché vi ho perso giocando a scacchi in una radura vicino a Sedan, e quindi non rompete le balle. Esatto, e quindi per rigenerare per davvero le condizioni politiche era necessario abbattere quello che aveva portato alla nascita del secondo impero. Decise quindi Parigi decide eroicamente di affrontare tutti i rischi della resistenza contro i cospiratori francesi, nonostante i cannoni prussiani la minacciassero dai suoi stessi forti, perché era a due passi dalla città. Il comitato centrale continuò a mantenersi in una posizione puramente difensiva. Thiers aprì la guerra civile, mandando alcuni reggimenti di fanteria in spedizione notturna contro Montmartre, per impadronirsi di sorpresa dell'artiglieria della Guardia Nazionale. È noto come questo tentativo andasse a monte per la resistenza della Guardia Nazionale e la fraternizzazione della fanteria col popolo. Daurel de Paladin aveva stampato in anticipo il suo bollettino di vittoria, e Thiers aveva pronti i manifesti che dovevano annunciare le sue misure da colpo di Stato. Ora, bollettini e manifesti dovevano venire sostituiti dagli appelli in cui Thiers rese nota la sua magnanima decisione di lasciare la Guardia Nazionale in possesso delle sue armi. Quindi, insomma, dopo il danno alla beffa, c'è questa bufala di Thiers che, dopo non essere riuscito a espugnare la Guardia Nazionale, ritira tutti i volantini e finge di concedere la libertà di esistere come struttura indipendente, con le quali, diceva, essa si sarebbe sicuramente raccolta attorno al governo contro i ribelli. Quindi diceva: ci fidiamo di voi, sappiamo Guardia Nazionale che sarete con il governo centrale, in questo bollettino manifesto propagandistico. Su 300.000 guardie nazionali, solo 300 risposero a questo appello di raccogliersi contro se stesse, tra parentesi dice Marx, attorno al piccolo Thiers. La gloriosa rivoluzione operaia del 18 marzo stabilì su Parigi il suo dominio incontrastato. Il comitato centrale fu il suo governo provvisorio. L'Europa parve per un istante dubitare se quei sensazionali accadimenti politici e militari avessero una qualche realtà o non fossero il sogno di un passato da lungo tempo scomparso. Dal 18 marzo fino all'ingresso delle truppe versagliesi a Parigi, la rivoluzione proletaria fu tanto immune dagli atti di violenza che abbondano nelle rivoluzioni e ancora più nelle controrivoluzioni, che i suoi avversari non trovarono nessun pretesto per urlare contro di essa, eccetto l'esecuzione dei generali Lecomte e Clément Thomas e l'episodio di Place Vendôme. Uno degli ufficiali bonapartisti che parteciparono al tentato attacco notturno contro Montmartre, il generale Lecomte, aveva ordinato 4 volte all'81esimo reggimento di fanteria di far fuoco su una folla inerme in Place Bigal e al rifiuto dei suoi uomini li aveva ferocemente insultati. Invece di sparare sulle donne e sui bambini, i suoi soldati spararono su di lui. All'alba del 18 marzo, Parigi fu svegliata da un colpo di tuono. Vive la Commune! I proletari di Parigi hanno compreso che è loro imperioso dovere e loro diritto assoluto di rendersi padroni dei loro propri destini, impossessandosi del potere governativo. Ma la classe operaia non può mettere semplicemente la mano sulla macchina dello Stato, bella e pronta, e metterla in movimento per i propri fini. Il potere statale centralizzato, con i suoi organi dappertutto presenti, esercito permanente, polizia, burocrazia, clero, magistratura, organi prodotti secondo il piano di divisione del lavoro sistematica e gerarchica, trae la sua origine dai giorni della monarchia assoluta, quando servì alla nascente società borghese come un'arma potente nella sua lotta contro il feudalesimo. Il suo sviluppo, però, fu intralciato da ogni sorte di macerie medievali, diritti signorili, privilegi locali, monopoli municipali e corporativi e costituzioni provinciali. La gigantesca scopa della rivoluzione francese del secolo XVIII spazzò tutti questi resti dei tempi passati, sbarazzando così in pari tempo il terreno sociale degli ultimi ostacoli che si frapponevano alla costituzione su di esso dell'edificio dello Stato moderno. Elevava sotto il primo impero, il quale a sua volta fu il prodotto delle guerre di coalizione della vecchia Europa, semifeudale contro la Francia moderna. Quindi, per fare chiarezza, visto che sicuramente una lettura veloce non è semplice da capire, o meglio, io non mi capisco a fatica quando leggo così veloce. Perché sei molto modesto. Sì. E qua sta dicendo che appunto non è un'operazione di semplice sostituzione di una classe sull'altra che porta alla conclusione di una rivoluzione, perché una volta che i proletari prendono in mano lo Stato, lo Stato francese, si ritrovano quello che è un apparato che è stato utilizzato dalla nascente borghesia, per abbattere il feudalesimo e tutta quella struttura che era il prodotto del Medioevo. Quindi tutto ciò che era poi stato spazzato via dalla rivoluzione francese del 1789 era uno strumento di dominio della borghesia sul proletariato. E quindi, insomma, non basta sostituirsi, ma va fatto qualcosa di più complesso e duraturo. Proseguo. Durante i successivi regime, il governo posto sotto il controllo parlamentare, cioè sotto il controllo diretto delle classi possidenti, non diventò solamente un'incubatrice di enormi debiti pubblici e di imposte schiaccianti. Con l'irresistibile forza di attrazione dei posti, dei guadagni e delle protezioni, esso non solo diventò il pomo della discordia tra frazioni rivali e gli avventurieri della classe dirigente, ma anche il suo carattere politico cambiò di pari passi con le trasformazioni economiche della società. Quindi questo stato cambia nei decenni. A misura che il progresso dell'industria moderna sviluppava, allargava, accentuava l'antagonismo di classe tra il capitale e il lavoro, il potere dello Stato assumeva sempre più il carattere di potere nazionale del capitale sul lavoro, di forza pubblica organizzata per l'asservimento sociale, di uno strumento di dispotismo di classe. Dopo ogni rivoluzione che segnava un passo avanti nella lotta di classe, il carattere puramente repressivo del potere dello Stato risultava in modo sempre più evidente. E quanto ne possiamo essere noi oggi testimoni, mi viene da commentare, insomma, dopo un paio di secoli in più di lotte sociali da quel periodo, quale stato repressivo e quale forza organizzata ci troviamo di fronte. Proseguo. La Comune fu composta dai consiglieri municipali eletti a suffragio universale, responsabili e revocabili in qualunque momento, sottolineo, responsabili e revocabili in qualsiasi momento, quindi non solo nominati per X tempo, punto, ma ogni volta potevano essere messi in discussione le loro scelte. Il servizio pubblico doveva essere compiuto per salari d'operai. Le indennità di rappresentanza degli alti dirigenti dello Stato scomparvero insieme con i dignitari stessi, e non come un certo ceto dirigente che noi conosciamo bene, su scelta volontaristica e quasi eroica di rinunciare ai privilegi uno per uno, ma questo è un dettame che viene preso collettivamente, no? Quello di togliersi i privilegi di classe. Mi riferisco chiaramente a ai grillini eroi che hanno rinunciato a qualche stipendio. Esatto. Grazie. Le briciole sono sempre così buone da mangiare. E appunto hanno basato poi tutta una retorica su questo, quasi fosse una cosa innovativa. Qua vediamo più di 150 anni fa, un atto collettivo è quello di abolire i privilegi. Vabbè, dai, classe. Però ci hanno anche dato il reddito universale. No. Siamo confusi. Sbarazzatasi dell'esercito permanente della polizia, elementi della forza materiale del vecchio governo, la Comune si preoccupò di spezzare la forza della repressione spirituale, il potere dei preti, sciogliendo ed espropriando tutte le chiese in quanto enti possidenti. Certo, però, era cosa irritante per i rurali che nel momento in cui essi dichiaravano il ritorno della Chiesa come solo mezzo di salvezza per la Francia, la miscredente Comune dissotterrasse gli strani misteri del convento di Picpus e quelli della Chiesa di San Lorenzo. E qua fa riferimento a appunto questo convento di Picpus, dove furono trovati strumenti di tortura e alcune donne rinchiuse che erano state accusate di pazzia e tenute in gabbia dai monaci. Tra l'altro, nei sotterranei della chiesa di San Lorenzo furono anche rinvenuti degli scheletri di donna. I sacerdoti furono restituiti alla quiete della vita privata, insomma, lasciati a casa, diciamo, per vivere delle elemosine dei fedeli, ad imitazione dei loro predecessori, gli apostoli. Un po' di coerenza, ogni tanto. Uno sberleffo al clero, intanto Marx ce lo regala. Tutti gli istituti di istruzione furono aperti gratuitamente al popolo, cosa che oggi nel XXI secolo ancora non abbiamo, manco qua in Italia. Beh, ma c'è internet adesso, dai, puoi imparare quello che vuoi su Wikipedia. Bel corso online. E via! I funzionari giudiziari furono spogliati di quella sedicente indipendenza che non era servita ad altro che a mascherare la loro abietta soggezione a tutti i governi che si erano succeduti. Sfogliare di pagine. La comune ammise tutti gli stranieri, come dicevamo anche prima, all'onore di morire per una causa immortale, tra la guerra esterna perduta per il suo tradimento e la guerra civile provocata dalla sua cospirazione con l'invasore straniero. La borghesia aveva trovato il tempo di manifestare il suo patriottismo organizzando battute di caccia poliziesche contro i tedeschi in Francia. La comune fece di un operaio tedesco il suo ministro del lavoro. Ed era il comunardo... Leo? Esatto, no, Leo Frankel, Leo Frankel, internazionalista che prima vi raccontavamo. Quindi abbiamo delle battute di caccia antitedesche organizzate da parte di un governo che ha dichiarato lui guerra per poi perdere e cercare l'armistizio e la pace a tutti i costi. Meraviglioso, sembrano quasi dei populisti praticamente, mentre trattano che i prussiani organizzano la battuta di caccia per il prussiano, esatto, in Francia, un genio totale. Mentre appunto il ministro del lavoro è un marxista tedesco all'interno della Comune di Parigi. La Comune doveva naturalmente servire di modello a tutti i grandi centri industriali della Francia. Una volta stabilito a Parigi, nei centri secondari, il regime comunale, il vecchio governo centralizzato, avrebbe dovuto cedere il posto anche nelle province all'autogoverno dei produttori. Voi non lo vedete, ma è bellissimo perché Davide sfoglia le pagine del libretto 3-4 alla volta, ma con una precisione bestiale becca subito la citazione che voleva. Fantastico. La classe operaia non ha da realizzare ideali, ma da liberare gli elementi. Attenzione, rifai. La classe operaia non ha da realizzare ideali, ma da liberare gli elementi della nuova società, dei quali è gravida la vecchia e cadente società borghese. Meraviglia, va bene. Bene, è stato fantastico. Abbiamo deciso di chiuderla qua. Questa è praticamente tutta la seconda parte della Comune, del libro La guerra civile in Francia. Poi Marx ha scritto anche Il 18 Brumaio, che racconta invece tutta una parte prima sulla politica interna. E niente, qua è diviso in tre parti. La prima parte invece l'abbiamo un pochino raccontata noi prima, facendo una rapida ricostruzione. Chiudiamo qui. Abbiamo già fatto un po' di salti appunto da una pagina all'altra, perché non volevamo anche tediarvi troppo, diciamolo. Allora, possiamo anche così essere più sinceri, perché per noi la radio è sincerità. Allora, noi avevamo in mente questo programma da un po' di tempo. Davide ce l'aveva in mente, me l'ha proposto, mi ha dicendomi: Guglielmo, tu vieni a pigiare i tasti e stai zitto, perché tanto dici già abbastanza cazzate su Zona Rossa. E io ho detto: assolutamente vero, totalmente verissimo. Ma esagerato. Abbiamo scelto questo stile un po' così: prima lo facciamo e poi capiamo cosa ci serve per farlo. E secondo me abbiamo capito che, per esempio, potrebbe starci qui, faccio un avance spintissima al mio compagno e amico con Davide, con occhiolino, magari un'altra puntata sulla Comune, dato che alcune cose per questioni di tempo abbiamo dovuto troncarle, tra cui biografie importanti, parti di libri e altre citazioni che ci interessavano. Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere idea parlare di altre biografie di rivoluzionari e rivoluzionarie, ma comunque ci pensiamo, sì, torneremo. Sì. Oppure anche per così raccontare al nostro pubblico una delle possibilità di sviluppo del programma, quella di proseguire raccontando le biografie rivoluzionarie nella ricostruzione di lotte sociali di vari paesi, di vari periodi, sulla Francia per esempio un altro momento potremmo raccontare quello di inizio Novecento, l'ondata dell'anarchismo, come potremmo poi raccontare ovviamente tante altre cose. Quello che è certo è che sabato prossimo sarà il 25 aprile. È verissimo, è verissimo. E questa cosa ci apre delle possibilità incredibili, perché comunque avremo, attenzione, possiamo iniziare a dirlo ai quei 100.000 ascoltatori che abbiamo, ascoltatrici che abbiamo in questo momento, e cioè che forse ci sarà un impianto che diffonderà audio live dal tetto di ZAM, perché il 25 aprile è la giornata di lotta. Wow. Per cui con la radio accesa si potrebbe magari parlare di storie di partigiani, partigiane, gente sì. che Si è sbattuta non poco. Sì, ricordando che Milano in Movimento sta pubblicando ogni giorno delle storie legate alla resistenza, in particolare di Milano. Compagne della Madonna. Compagne della Madonna. Quelli e quelle di Milano in Movimento. E, sì, quindi raccontando alcune vicende sia biografiche che personali di partigiani e partigiane, e sia anche delle storie della città. C'è una proposta sugli schermi per quanto riguarda la canzone di chiusura. Che ed dici? È proprio... La... Ci piace? Ma ci piace. Allora devi parlare qualche minuto mentre io la estrapolo. Estrapola la. È una canzone lunghina, un grande classicone. A me è sempre una di quelle cose che mi fa sempre un po' emozionare. Allora, quando noi l'ascolto. Oggi vi abbiamo proposto un sacco di classiconi, un sacco di pezzi che sicuramente già conoscevate. Ma la nostra idea era anche quella di cercare delle canzoni di lotta che vi invitiamo a segnalarci. Qualcuna l'avevamo trovata e ascoltata. Qualcuno aveva come strumento di sottofondo tipo un martello che picchiava contro un muro e un coro di contadine e basta. Ci abbiamo riflettuto se mandarla. In realtà probabilmente lo faremo e sfideremo la vostra resistenza all'ascolto. I vostri orecchi. E in realtà dopo la locomotiva... hai detto il titolo, sto presone, andiamo benissimo lo stesso. Ma dopo la locomotiva cosa mettiamo? Ma sì, intanto va bene. Metteremo un altro pezzo. Ma va bene. Che abbiamo nel nostro serbatoio. Sì. Che riguarda, vabbè, che ha tema della puntata. Ci dirai i microfoni spenti perché quindi, non vogliamo. E quindi ho fatto uno spoiler, ma poi subito dopo ho recuperato. Bravo. Hai spoilerato per poi ricreare suspense. C'è una sei un maledetto. Wow. Va bene, ci sentiamo la locomotiva, versione dei Modern City Ramblers. Io mi assumo anche la responsabilità politica umana di troncarla a un certo punto perché dura 7 minuti e 20. Vedi, e quindi poi dovremo rilanciare con un altro pezzo ignoto. Noi facciamo un bel dissolvi ora, il volume è alzato, buon ascolto, a tra poco. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, o che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere, i primi anni del secolo, macchinista ferroviere, i tempi in cui si cominciava. La guerra santa dei pezzenti, sembrava il treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano, ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava il...